Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. È estate. Edouard si abbronza sul suo minuscolo balcone, al 16° e ultimo piano dell'hotel Winslow, mangiando una zuppa di cavoli direttamente dalla pentola. È ottima la zuppa di cavoli. Una pentola costa $2, dura 3 giorni, è buona sia calda che fredda e anche senza frigorifero non va a male. I palazzi di fronte a lui sono occupati da uffici con i vetri oscurati, dietro i quali dirigenti in giacca e cravatta e segretarie che abitano in periferia devono chiedersi chi sia quel tipo abbronzato, muscoloso, che prende il sole sul balcone in mini slip rosso e qualche volta, senza porsi il minimo problema, con l'uccello di fuori. Ecco a voi Edichka, cari contribuenti americani, il poeta russo che vi costa $278 al mese e vi disprezza cordialmente. Ogni 2 settimane Edouard si presenta all'ufficio del welfare, dove aspetta pazientemente, in compagnia di altri relitti della società, che gli venga dato il suo assegno. Ogni 2 mesi va a colloquio con un impiegato del welfare che si informa sui suoi progetti. «I look for job. I look very much for job», dice Edouard, esagerando il suo cattivo inglese per spiegare che le sue ricerche sono state infruttuose. In realtà, Edouard non look affatto for job e si accontenta di arrotondare il sussidio di disoccupazione, dando talvolta in nero una mano a Lionia Kasagor, che lavora per un ebreo russo specializzato in traslochi per ebrei russi. Rabbini, intellettuali con scatoloni pieni di edizioni complete di Chekhov e Tolstoi, nelle loro rilegature sovietiche verde scuro la cui colla puzza ancora un po' di pesce. Il welfare, che pensa alla sua integrazione, gli offre dei corsi d'inglese. I corsi, a parte lui, sono frequentati unicamente da donne, nere, asiatiche, latine, che gli mostrano le foto dei figli, tirati al lustro come sono sempre i figli dei poveri. Qualche volta gli portano anche vaschette ignifughe contenenti piatti tipici dei loro paesi, a base di patate dolci e banane platano. Loro gli parlano di quei paesi e lui gli parla del suo. Le donne sgranano gli occhi quando Edouard racconta che in Unione Sovietica l'istruzione e l'assistenza sanitaria sono gratuite. Perché ha lasciato un paese tanto buono? Già, perché? Ogni mattina va a piedi fino a Central Park e si sdraia su un prato usando come cuscino il sacchetto di plastica in cui tiene il suo quaderno. Rimane per ore a guardare il cielo e sotto il cielo le terrazze dei palazzi per nababbi della Quinta Avenue, dove vivono quelli come i Lieberman, che ormai non vede più e il cui mondo raffinato appartiene ai suoi occhi a una remota vita anteriore. Soltanto un anno prima andava a casa loro nei panni del giovane scrittore dal promettente futuro, marito di una bella donna che sarebbe diventata una famosa modella, e ora è un barbone. Guarda le persone attorno a sé, ne ascolta i discorsi, valuta le probabilità che ha ognuna di loro di sfuggire la sua condizione attuale. Per i barboni, quelli veri, non c'è scampo. Gli impiegati e le segretarie che arrivano all'ora di pranzo per mangiare un sandwich su una panchina faranno un po' di strada, ma non andranno lontano. E del resto non ci pensano nemmeno ad andare lontano. I 2 ragazzi con la faccia da intellettuali che discutono e coprono di appunti i fogli su cui devono aver battuto a macchina una sceneggiatura sembrano prendersi molto sul serio. Sicuramente ci credono ai loro dialoghi alla cazzo di cane, al loro personaggio alla cazzo di cane. Forse fanno bene a crederci, forse sfonderanno, forse vedranno Hollywood, le piscine, le starlette e la cerimonia degli Oscar. In compenso, la tribù di portoricani che sciorina sul prato, tutto un armamentario di coperte, radioline, neonati, termos, quelli si può stare sicuri che resteranno dove sono, anche se chi può mai dirlo. Forse, grazie ai loro sacrifici, quel neonato che frigna nel suo pannolino pieno di merda porterà a termine studi eccezionali e riceverà il premio Nobel per la medicina o diventerà segretario generale dell'ONU. E lui, Edouard, con i suoi jeans bianchi e le sue idee nere, che ne sarà di lui? Quello che sta vivendo è un capitolo tra i tanti della sua vita romanzesca, Barbone a New York, oppure è l'ultimo capitolo, l'epilogo del suo libro. Edouard estrae dal sacchetto di plastica il quaderno e, fumando uno spinello comprato da uno dei piccoli spacciatori di cui è diventato amico, comincia a scrivere, appoggiato su un gomito. Tutto quello che ho appena raccontato, il welfare, l'hotel Winslow, i miserabili esuli russi, Tania, e come è arrivato a questo punto, scrive di getto. È senza preoccupazioni letterarie e presto arriva al secondo, al terzo quaderno. Sa che quel racconto sta diventando un libro e che quel libro è la sua unica speranza di salvezza. Si considera omosessuale, ma non pratica granché. La sua è più che altro una posa. Un pomeriggio in cui sta sbevazzando su una panchina in compagnia di un russo lagnoso, pittore astratto a Mosca e in bianchino a New York, un giovane nero con l'aria da barbone si avvicina per scroccare loro una sigaretta. Per pura provocazione, Edouard cerca di rimorchiarlo. Gli dice «I want you». Lo prende per le spalle, lo bacia. Il ragazzo ride, lo lascia fare. Se ne vanno insieme a scopare sulle scale di un palazzo. Il pittore resta sulla panchina. Sbalordito poi racconta in giro l'episodio. Allora è vero. Quella canaglia di Limonov è diventato frocio, si fa inculare dai negri. Già circola la voce che sia al soldo del KGB. Secondo un'altra, Limonov si sarebbe invece suicidato dopo essere stato abbandonato da Tania. Lui lascia dire, divertito. In realtà preferisce le ragazze. Il problema è trovarne. Al parco, dove passa le giornate a scrivere, ne aborda una che distribuisce volantini del Partito dei Lavoratori. Il bello dei volantinatori, non importa se sinistrorsi o testimoni di Geova, è che essendo abituati a venire respinti in malo modo, sono contenti quando qualcuno si ferma a discutere con loro. La ragazza si chiama Carol, è magra, non bella, ma in quel momento della sua vita Edouard non può permettersi di fare lo schizzinoso. Il Partito dei Lavoratori, gli spiega Carol, sono i trotskisti americani che propugnano la rivoluzione mondiale. La rivoluzione mondiale. Edouard è a favore. Lui è per principio dalla parte dei rossi, dei neri, degli arabi, dei froci, dei barboni, dei drogati, dei portoricani, di tutti quelli che non avendo niente da perdere appoggiano, o almeno dovrebbero appoggiare, la rivoluzione mondiale. Ed è a favore anche di Trotsky, ma ciò non significa che sia contro Stalin, sebbene questo intuisce sia meglio non dirlo a Carol. Colpita dalla sua foga, la ragazza lo invita a un comizio di sostegno al popolo palestinese, avvertendolo che potrebbe essere pericoloso. Fantastico, si scalda Edouard. Ma il comizio del giorno dopo è una delusione terribile. I discorsi non mancano di energia, ma alla fine i partecipanti si disperdono, tornano a casa o se ne vanno in gruppetti a continuare la discussione in qualche coffee shop con l'unica prospettiva di un altro comizio fra un mese. Non capisco, dice Carol, perplessa. Che cosa avresti voluto fare? Beh, restare insieme. Andare a prendere delle armi e attaccare un edificio del governo, o dirottare un aereo, o preparare un attentato, insomma, non so, qualcosa. Edouard si appiccica a Carol, con la vaga speranza di andarci a letto, ma viene a sapere che la ragazza sta già con uno, non meno incendiario di lei a parole e altrettanto prudente nella pratica, e ancora una volta se ne torna in albergo da solo. Pensava che i rivoluzionari vivessero tutti insieme in una casa occupata, in una sede clandestina, non ciascuno in un piccolo appartamento dove nel migliore dei casi invitare gli altri per un caffè. Però li rivede, Carol e i suoi amici. Sono pur sempre un gruppo, una famiglia. E Edouard ha disperato bisogno di una famiglia, al punto che quando a Central Park vede gli Hare Krishna agitare campanelle e tamburini salmodiando le loro stronzate, si sorprende a pensare che in fondo non deve essere male starsene lì, in mezzo a loro. Partecipa alle riunioni del Partito dei Lavoratori. Accetta di distribuire volantini. Carol gli presta le opere di Trotsky, che decisamente gli piace sempre di più. Gli piace che Trotsky dichiari apertamente viva la guerra civile, che disprezzi discorsi da donnicciole e da preti sul sacro valore della vita umana, che dica che per definizione i vincitori hanno ragione e gli sconfitti torto e che il posto dei secondi è nella spazzatura della storia. Queste sì che sono parole virili. E gli piace ancora di più quello che raccontava il vecchio del Rusko Jediela. Il tizio che le ha pronunciate è passato in pochi mesi dalla condizione di esule morto di fame, a New York, a quella di generalissimo dell'Armata Rossa, uno che si spostava da un fronte all'altro a bordo di un vagone blindato. Questo è il genere di destino che si augura a Edouard, ma purtroppo non gli capiterà niente di simile con quegli invertebrati di trotskisti americani. sempre pronti a disquisire sui diritti delle minoranze oppresse e dei prigionieri politici, ma terrorizzati dalle strade, dalle periferie, dai veri poveri. Per quanto desideri inserirsi in una comunità, Edouard ne ha piene le scatole di loro. E siccome ne ha abbastanza anche degli esuli russi, sposta la valigia dall'hotel Winslow, loro quartier generale, all'hotel Embassy, se possibile ancora più squallido, ma frequentato solamente da neri, drogati e prostitute d'ambo i sessi, che Edouard trova più eleganti. Lui è l'unico bianco, ma non stona, perché, come ha osservato Carol, e sulle sue labbra non sembrava un complimento, si veste come un negro. Appena il trasloco di un altro rabbino gli procura qualche dollaro, spende tutto in capi di vestiario, usati ma appariscenti. Gli abiti bianchi e rosa, le camicie con jabot di merletti, le giacche di velluto lilla cangiante, gli stivaletti con i tacchi bicolore, gli procurano la stima dei vicini. Sapendo di fargli piacere, Lionia Cassagor, l'ultimo dei suoi amici, gli riferisce che tra gli esuli si sta spargendo la voce. Prima si diceva che fosse frocio, cechista o morto suicida. Ora si dice che viva con due puttane nere e che sia il loro ruffiano. La sua finestra all'Embassy dà sul tetto della piccola casa in Columbus Avenue, nella quale vive Gennady Shmakov, insieme a due ballerini, omosessuali come lui. A Leningrado Shmakov era il miglior amico di Brodsky, che nelle sue interviste lo ricorda con grande affetto. Generoso, coltissimo, pettegolo, parla cinque lingue e conosce a memoria 50 balletti. È un po' il prototipo della checca fanatica della danza e dell'opera. E Brodsky e Limonov, per una volta d'accordo, ne hanno grande stima. Tanto più che Shmakov è nato in una famiglia di spaventosi bifolchi degli Urali. Secondo Brodsky è una regola. Soltanto un provinciale può diventare un autentico dandy. Meno richiesto dei suoi celebri amici, Brodsky e la stella del balletto Mikhail Baryshnikov, a New York Shmakov vive nella loro scia, approfitta delle loro conoscenze e ottiene grazie a loro traduzioni e articoli sui grandi coreografi russi. Edouard è già stato scottato da quel mondo troppo brillante, dove lui che aspira al ruolo di protagonista ha finito con il fare la comparsa, ma Shmakov e i suoi due coinquilini sono soltanto satelliti dello Star System e per questo Edouard non si sente troppo in soggezione. Così, quando non ne può più della solitudine, deve soltanto attraversare la strada per trovare in casa loro, a qualsiasi ora, quella generosa accoglienza russa che gli scalda il cuore. I tre gli preparano manicaretti. Shmakov è un cuoco eccezionale. Lo vezzeggiano, lo consolano, gli dicono che è carino, è desiderabile. Insomma, Edouard riceve da loro tutta la dolcezza che si aspettava da una relazione omosessuale, senza però essere costretto ad andare fino in fondo. Come riccioli d'oro nella casa dei tre orsi, scherza Shmakov tagliando il culebiaca. Edouard è talmente a suo agio con Shmakov da fargli leggere per primo il manoscritto di Io, Edichka, il libro che ha buttato giù durante l'estate sui prati di Central Park. Shmakov ne è entusiasta. Beh, diciamo che ne rimane colpito. Trova Edichka terribilmente cattivo, ma cattivo alla maniera di Raskolnikov in Delitto e Castigo, e comincia a chiamare lui Radion, come Raskolnikov, e il suo libro Io, Radionka. Inoltre questo esteta e uomo di buon gusto pensa che di tutti gli esuli russi di talento quella piccola canaglia sia l'unico ad aver scritto qualcosa di veramente contemporaneo. Nabokov è un grande artista, ma un professore universitario, un parnassiano e anche un maiale ipocrita. Eppure Iosif, dice Shmakov abbassando la voce come intimorito dalla sua stessa bestemmia, perché a Brodsky deve tutto e senza di lui a New York non sarebbe niente. Un genio Iosif, ma un genio del tipo T.S. Eliot o del suo amico Winston Oden, un genio della vecchia scuola. Leggere i versi di Brodsky è come ascoltare musica classica, Prokofiev o Britten, mentre quello che scrive quel ragazzaccio di Edichka fa pensare piuttosto a Lou Reed, A Walk on the Wild Side. Con questo non voglio dire, sfuma il suo giudizio Shmakov, che Lurid sia meglio di Britten o di Prokofiev. Io personalmente preferisco Britten e Prokofiev, ma insomma, un'esibizione di Lurid alla Factory è più contemporanea di una rappresentazione di Romeo e Giulietta al Metropolitan Opera. Non si può certo sostenere il contrario. Questi complimenti fanno piacere a Edward, ma non lo sorprendono poi tanto. Lui lo sapeva già che il suo libro era geniale. Accetta perciò che Shmakov faccia circolare il manoscritto nella sua cerchia sotto forma di Samizdat, partendo dai suoi due eroi, Brodsky e Baryshnikov. Di Brodsky Edward non si fidava, e aveva ragione. Il grand'uomo impiega un'eternità a leggere il manoscritto, probabilmente nemmeno lo finisce, e lascia passare molto tempo prima di rendere note le sue preziose impressioni, che sono negative. Anche a Brodsky il libro ha fatto venire in mente Dostoevsky, solo che a lui non sembra scritto da Dostoevsky e neanche da Raskolnikov, ma da Svidrigailov, il personaggio più perverso, negativo e depravato di Delitto e Castigo. E questo fa un'enorme differenza. Baryshnikov invece ne è rimasto stregato. Durante le prove del balletto, appena aveva un momento libero, si appartava per rituffarsi nella lettura. Purtroppo però è così influenzato da Brodsky che non avrà il coraggio di contraddirlo. Non potendo prendersela con nessuno dei due, Edward sfoga il proprio risentimento contro il buono e generoso Shmakov. Lo accusa di essere un cortigiano, un parassita, l'amico senza spina dorsale della gente ricca e famosa. «Già che c'eri», lo rimprovera, «avresti potuto dare il mio libro a Rastrapovich, il re degli opportunisti». Il terzo componente della troica infernale dei padrini, che se fossero rimasti in Unione Sovietica, adesso sarebbero senz'altro segretari generali dell'Unione degli scrittori, dei compositori, dei ballerini e farebbero tutto quello che è in loro potere per soffocare gli artisti veramente rivoluzionari, esattamente come fanno qui. Shmakov chinò il capo, mortificato. Una sera d'inverno, per distrarlo, Shmakov insiste per portare Edward a una lettura tenuta da una poetessa sovietica al Queen's College. L'idea non lo entusiasma affatto. Quelle sviolinate fra universitari americani e intellettuali russi vanno bene per Brodsky, non per lui. Ma non sopporta più di girare a vuoto nella sua topaia e così ci va. Nella sala piena, lui e Shmakov si siedono non lontano da Baryshnikov, che finge di non riconoscere Edward. Ma può anche darsi che veramente non lo riconosca. Proprio quel che Edward temeva. Un'umiliante serata di rabbia repressa. E il suo umore non migliora quando ha inizio la lettura. La poetessa, Bella Akhmadulina, appartiene come Yevtushenka alla generazione degli anni Sessanta, convinta, cita Edward, che per costruirsi un destino di poeta siano sufficienti un viaggio a Parigi, una sbronza alla casa degli scrittori e qualche verso irriverente in fondo alle tasche. Specializzati nel dare a Stalin, morto e sepolto, il calcio dell'asino, destinatari delle premure degli intellettuali occidentali che si precipitano a firmare petizioni appena viene loro rifiutata una tournée all'estero o una loro silloge viene stampata in 100.000 copie anziché 1.000.000, e convenientemente devoti alla Santissima Trinità, Svietaeva, impiccata in uno sperduto villaggio, Mandelstam, morto folle di terrore in un campo fra le immondizie mentre cercava ossi da rosicchiare, e soprattutto Pasternak, talento lirico gradevole ma uomo compromesso e servile, filosofo da dacia, amante dell'aria pura, delle comodità e dei libri antichi, che ha tradotto un'intera raccolta di inni a Stalin in ogni lingua immaginabile e se la fa sotto dalla paura davanti al suo stesso dottor Givago, questo inno alla vigliaccheria dell'intelligenza russa. Chiudiamo le virgolette. Dopo la lettura vi è una cena. Qualcuno viene invitato, qualcuno no, non si capisce bene, ma Edward segue Shmakov. I due si infilano in un'auto che li porta nei quartieri alti e si trovano in una casa di tre piani con giardino sull'East River, una cucina grande come una sala da ballo, un arredamento del tipo che si vede sulle riviste, ancora più bella di quella dei Lieberman. Idem per il buffet. Champagne e vodka così ghiacciata che scivola giù liscia come l'olio. Una trentina di invitati, russi e americani, fra cui l'unico che Edward conosca è Baryshnikov, che però lo evita accuratamente. Riceve tutta quella gente una ragazza di nome Jenny, il volto rotondo, affabile. Edward si chiede se sia lei la padrona di casa. No, è troppo giovane. Piuttosto la figlia dei padroni di casa. Alcuni la baciano, altri no. Edward si rammarica di non aver avuto la faccia tosta di baciarla quando è arrivato. Si rilassa, con l'aiuto della vodka, tira fuori l'erba giamaicana che ha sempre in tasca e comincia a rollare canne. In cucina si forma un capannello attorno a lui. Jenny, impegnata a girare da una stanza all'altra per badare a tutti gli invitati, tira una boccata ogni volta che passa. E ogni volta che passa, Edward scherza con lei con sempre maggiore familiarità, come se si conoscessero da un pezzo. Non si può dire che Jenny sia bella, ma c'è in lei un che di aperto, disponibile, quasi di campagnolo, che stride con quella cornice lussuosa e rassicura. Edward è sempre più ubriaco, sempre più espansivo. Prende la gente per le spalle, ripete che lui non voleva venire ma sbagliava, e da tanto che non trascorreva una serata così piacevole. Gli sembra che tutti gli vogliano bene. Poi la poetessa e il marito salgono a dormire nella camera che è stata riservata loro al primo piano. Gli ultimi sbevazzoni se ne vanno. Edward aiuta i camerieri a sparecchiare, quindi se ne vanno anche i camerieri. In cucina restano solo lui e Jenny. Commentano la serata come una coppia dopo che gli invitati se ne sono andati. Edward si rolla l'ultima canna, la passa a Jenny, poi la bacia. Lei si lascia baciare, ridendo un po' troppo rumorosamente per i gusti di Edward. Ma quando lui vuole spingersi più in là, Jenny si sottrae. Edward insiste, ma lei non cede. Come ultima spiaggia le propone di dormire insieme senza fare niente. Jenny scuote la testa. No, no, no. Conosce quei trucchetti, ora bisogna che lui torni a casa. A casa. Se Jenny sapesse cos'è casa sua. Il lungo ritorno a piedi, sotto la gelida pioggia di febbraio, è crudele. E la sua stanza mille volte più squallida di quando l'ha lasciata una decina di ore prima. Però Edward ha il numero di telefono di Jenny. Lei gli ha detto di richiamarla, lui lo fa già il giorno dopo. Ma no, oggi è impossibile, ci sono degli invitati. E io, pensa Edward senza avere il coraggio di dirlo, non posso essere invitato con gli invitati. Anche due giorni dopo è impossibile perché la sorella di Steven si trattiene tutta la settimana. Edward ignora chi siano questo Steven e questa sorella, e al telefono con il suo scarso inglese non capisce neanche la metà di quello che Jenny gli dice, ma pensa che la ragazza ce l'abbia con lui e si dispera. Resta a letto una settimana senza alzarsi. Piove ininterrottamente. Edward ascolta, oltre la parete della stanza, il cigolio dei cavi dell'ascensore in cui i clienti delle prostitute pisciano senza farsi problemi. E pensa alla vita che potrebbe fare se riuscisse a sedurre quella ricca ereditiera. Alla fine, una domenica pomeriggio, Jenny permette a Edward di andarla a trovare. È sola in casa. Ha smesso di piovere e i due vanno a prendere il caffè nel giardinetto privato da cui si vede il fiume. Jenny indossa una tuta che lascia scoperte caviglie inaspettatamente tozze per una ricca ereditiera, pensa Edward, il quale però decide di spiegarselo supponendo una sua origine irlandese. Edward spera di commuoverla, raccontandole qualche episodio della propria vita sentimentale. La prima moglie pazza, la seconda da cui è stato mollato perché è senza un soldo, la madre che lo ha fatto rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Funziona. Jenny si commuove e vanno a letto insieme. La stanza della ragazza all'ultimo piano è più piccola di quanto Edward pensasse. La rustica passera di Jenny non vale quella così graziosa di Tania. Jenny fa l'amore con bovina placidità e scandalizza Edward, che si ritiene difficilmente scandalizzabile, dicendogli senza perifrasi che in quelle 2 settimane si è negata non perché lui non le piacesse, ma perché aveva un'infezione urinaria. Al mattino, però, Jenny gli prepara una magnifica colazione con spremuta d'arancia fresca, crepe allo sciroppo d'acero e uova al bacon. E Edward pensa che comunque deve essere meraviglioso svegliarsi ogni giorno accanto a una donna affettuosa, in un letto tiepido dalle lenzuola stirate, con Vivaldi in sottofondo e il profumo dei toast che sale dalla cucina. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.